Spesse volte noi, credendo di fare una cosa buona, ne facciamo una buona a metà. Per esempio, credendo di prepararci al Santo Natale, ci impegniamo a metterci un impegno maggiore, per esempio venire una volta in più a messa, per esempio essere fedeli al rosario, magari anche davanti al presepe, tutte cose buone, purché comprendiamo che prima ancora del nostro impegno viene il dono di Dio. Il nostro impegno è solo una risposta al dono di Dio. Del resto è avvenuto così sempre nella santità. Maria, la Madonna, non ha fatto niente per meritarsi, ha ricevuto, ha solo risposto col suo impegno. I santi, prendete Padre Pio, è nato così, ha risposto in questa maniera. Don Bosco è nato così. Un ragazzo nasce dotato dei suoi talenti così com'è. Poi naturalmente deve impegnarsi a corrispondere, ecco la parola giusta, accogliere e corrispondere. Proprio per questo io volevo farvi notare quello che anch'io prima, per prepararmi a questa Santa Messa, ho meditato sul messalino quotidiano che io consiglio a tutti di avere e di usare perché è una miniera. Se ce l'avete vi inviterei a prenderlo in mano. Siamo a pagina 146. All'ingresso abbiamo detto, l'abbiamo detto, io adesso vi invito a prenderne conto, magari l'abbiamo detto senza accorgerci completamente. Rivelati tu che siedi sui cherubini. Cioè noi ci rivolgiamo a Dio dicendo rivelati. Pensate, usiamo addirittura un comando, il verbo imperativo. Il Signore ci concede tanta confidenza con Lui da dirgli forza, fatti vedere, rivelati, manifesta la tua potenza e vieni a salvarci. Sono tutti verbi in cui è Dio che agisce. Noi dovremmo essere lì come fa il sacerdote quando prega con le braccia alzate, che se da una parte dice Signore la nostra preghiera salga a te, dall'altra dice le nostre braccia sono spalancate per ricevere quello che tu ci mandi dal cielo. E vieni a salvarci. Come mi piace questo verbo. Io sono una persona salvata, per fortuna mia. E ancora continua, volgiti a noi. Guardaci dal cielo, fa tutto Dio, potremmo dire. E noi dobbiamo accogliere. Ma scusate, non è così. Quando vi è nato un bambino, cos'era capace di fare? Niente, niente. Ha cominciato a fare qualcosa quando tu gli facevi le moine e lui ha cominciato a sorriderti. L'unica cosa che sapeva fare, ma dopo, era di sorriderti. Ma fino a una buona stagione della sua vita iniziale, lui ha solo ricevuto. Guardate che noi siamo così con Dio, amici. E poi l'orazione va avanti e dice la stessa cosa, ma è molto bella, ve la voglio leggere. Concedi, un altro verbo in cui noi riceviamo. Serbaci, Guardate che bella espressione, conservaci alla scuola delle cose celesti. Mamma mia, che bella espressione, anche poetica. Noi dovremmo andare a scuola delle cose celesti. E ancora un'altra espressione bellissima. E nella tristezza dei tempi presenti, donaci un po' di gioia. Che bello. È il nostro caso. Nella tristezza di questi mesi, donaci un po' di gioia. Benedetto il cristiano che capisce che tutto è dono, tutto è grazia. E allora invece di metterci a dire, caspita, me lo dicono tutti e mi rendo conto anch'io che ho un brutto carattere, mi devo mettere a migliorare, tanto non ce la fai. Devi solamente dire, Signore, guariscimi. Signore, migliorami. Naturalmente io cercherò di fare la mia parte, ma solo come risposta. E provate a pensare, è capitato anche a tutti noi in qualche momento della nostra vita magari di avere un po' di febbre, di non star bene. Ti scappa la voglia anche di pregare. Per fortuna è il Signore che non gli scappa la voglia di aiutarci. Vieni, Signore Gesù.